その風が待つ、その風が待つ、その風が待つ。 わあ、sono proprio così pazzi。 Giro per casa, cerco un po' di fresco. Provo a fermare il sudore, non ci riesco. Mi sento come una ragazza dopo un'ora di aerobica. Rifletto mentre preparo un tropical. Molte volte sono un disinteressato a giudizi sul mio volto così poco abbronzato. Tanto che sono incurante delle gocce sul mio fisico uguale ad un giocatore di boccia. Vabbè, esco fuori al balcone, ma in estate al paese mio è più freddo un termosifone. Acceso? Ovviamente lo stereo passa il solito pezzo rap deprimente che parla di vita, di sangue che schizza. Penso è vero, in questo genere il bene non fa notizia, però cazzo mi fa intristire che dopo un pezzo sulla vita io c'ho sempre voglia di morire. Mamma, tuo figlio è diventato grande, scrive testi seri, fa musica pesante, e vorrebbe dire ogni cantante che un pezzo serio non è un pezzo che ci fa due palle tante. Per forza mi strofino gli occhi, guardo fogli accartocciati per i troppi scarabocchi. Non scrivo di getto perché ho sempre pensato che un pezzo è come un bimbo e da tale va educato. Dicono che ho la mente disastrata, e cosa mi dici di un padre che tiene sua figlia segregata in casa e non sa che il giorno in cui la bimba prende aria esce pazza più di lui. Ehi, ok, ne accendo un'altra. Il fumo riempie polmone e stomaco, il fumo nuoce a polmone e stomaco, è un manicomio e ho il volta stomaco. Oh, oh, oh, ti amo però, oh, oh, oh, dimmi cose che non so, oh, oh, oh, nessuno ha fantasia, mi accusano di follia, ma manicomio il mondo dove sto. Mi accusano di follia, ma manicomio il mondo.